La pista non è più buia e l'ansia con te sia nulla. La musica muove la sola illusione di averti con me. Non dici niente, però dentro i tuoi occhi c'è un fuoco, una strobo, un riflesso di noi e tutti i colori di questa città. In questa notte di sole. Battito, battito, battito, battito.